Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. I can tell you that Santa Claus is immune to this virus and he is doing very well. Mrs. Claus is doing very well and they're very busy right now. But he is immune, so he will be able to travel in and out of the airspace and be able to deliver presents to children. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, finalmente una buona notizia, una notizia in particolare per i bambini di tutto il mondo. Babbo Natale è immune al coronavirus e potrà viaggiare per consegnare i regali a tutti i bambini nel mondo. L'ha detto Maria Van Kerkhove, capo epidemiologa dell'OMS, un organismo appunto mondiale della salute, nella consueta conferenza stampa sul Covid-19. Dice: ci abbiamo parlato con Babbo Natale, ha detto la dottoressa, sta molto bene ed è molto indaffarato in questi giorni, quindi l'OMS rassicura. Anche da questo punto di vista, finalmente una buona notizia, perché le altre, insomma, non è che ci accompagnino in modo favorevole. Parleremo naturalmente, come sempre, di dati aggiornati rispetto al coronavirus in Italia e non solo, anche in Europa. E per quanto riguarda le attese, le restrizioni, le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, oggi è finita questa riunione fiume. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato delle indicazioni principali che vanno verso appunto delle ulteriori restrizioni. Conte, anche il ministro Boccia lo ha confermato, il ministro Boccia degli affari regionali, che ha detto che domani se ne parlerà con le regioni. Ci occuperemo anche della fotografia dell'Italia fatta dal rapporto Istat, e anche qui ci sono delle cifre che riguardano le vittime dell'ultimo anno, anche in previsione, che potrebbero superare addirittura quelle totali in Italia del 1944, quindi in piena guerra mondiale. Insomma, tante notizie quindi negative. C'è la sentenza arrivata oggi della Cassazione sul caso di Jessica Notaro, ricordate la ragazza sfregiata dall'ex fidanzato. Finalmente, insomma, questa storia, almeno dal punto di vista giudiziario, è arrivata alla fine con una condanna definitiva di 15 anni. Quindi tanti ospiti ci saranno, anche appunto il legale di Jessica Notaro. Non perdete neanche un minuto di Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure WhatsApp al 349 238 6666. Ma intanto, prima di approfondire tutti questi temi, sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 14.844 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 846, un livello troppo elevato, dice Rezza del Ministero della Salute. Le misure per le festività natalizie: il Comitato Tecnico Scientifico chiede di inasprire regole e controlli. Il ministro Boccia annuncia domani con le regioni sul tavolo anche le restrizioni. Vaccini: l'Europa accelera sull'approvazione, 9 paesi pronti a cominciare insieme la campagna. Politica italiana: nelle consultazioni per la verifica di maggioranza, Conte sottolinea che il governo rema in un'unica direzione. Il rapporto Istat: in Italia nel 2020 più di 700.000 morti, mai così tanti dal 1944. Violenza sulle donne: condannato in via definitiva a 15 anni l'ex fidanzato di Jessica Notaro, che le sfregiò il volto con l'acido. Musica: parte con la finale di Sanremo Giovani la corsa al Festival 2021. Partiamo quindi, come sempre, con i dati del Ministero della Salute sull'evoluzione del coronavirus in Italia. Sono 14.844 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime, avete sentito, sono invece 846, un numero ancora troppo elevato, ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica. Oggi abbiamo dei dati in qualche misura contrastanti, in quanto positivi, i nuovi positivi sono 14.844, ieri erano circa 12.000, chiaramente ieri erano stati fatti molto meno tamponi, oggi i tamponi eseguiti sono 164.431, quindi sembrerebbe che stiamo oggi sotto il 10% per quanto riguarda il livello di positività. Purtroppo però abbiamo questo dato dei morti, che è veramente oggi di nuovo molto elevato, e questo sta a significare che il numero di persone che si è infettato è veramente un numero molto elevato. E se non si prende alcun provvedimento, alla fine saremo costretti a fare il lockdown generale, ha detto ancora Rezza. Il Comitato Tecnico Scientifico spinge per l'inasprimento delle misure, ma nel verbale non sono indicate le chiusure. Servono misure più restrittive nel periodo natalizio per evitare che il contagio si impenni un'altra volta. Lo chiede il Comitato Tecnico Scientifico dopo 2 giorni di riunioni, ma senza indicare precise regole. Una decisione che ha spaccato il Comitato con i rappresentanti del Ministero che avrebbero voluto indicazioni precise e non hanno firmato. Il CTS chiede comunque più controlli per impedire gli assembramenti, più restrizioni per i luoghi dove si abbassa la mascherina come bar e ristoranti, e massima attenzione per evitare il contagio nelle feste di famiglia. Il CTS chiede dunque in sostanza di alzare le restrizioni almeno a zona arancione per tutta Italia e dunque il divieto di uscire dal proprio comune e la chiusura di bar e ristoranti. Il governo è diviso con i ministri Speranza e Boccia pronti a seguire il CTS e Renzi che invita invece a non cambiare. Divise anche le regioni con il presidente Zaia pronto a discutere nuove restrizioni e sul lato opposto il ligure Toti. Nelle prossime ore sono previste girandole di videoconferenze, una decisione attesa entro giovedì. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo, il ministro Boccia ha annunciato appunto domani con le regioni sul tavolo anche la questione delle restrizioni. In merito invece ai vaccini, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute ha ribadito che i primi saranno gli operatori sanitari e che si punta a partire con Francia e Germania. L'Europa accelera sull'approvazione dei vaccini e 8 stati membri, tra i quali l'Italia, si apprestano a partire all'unisono. Avviamo insieme la campagna vaccinale, affermano in una dichiarazione congiunta i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera. Vaccini che corrono sempre più veloci verso l'approvazione. L'Agenzia Europea per i Medicinali si riunirà infatti il 21 dicembre per decidere sul vaccino Pfizer-BioNTech. Ogni giorno conta, lavoriamo alla massima velocità, scrive su Twitter la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ed è probabile che i primi europei siano vaccinati prima della fine del 2020. E dagli Stati Uniti arriva un primo disco verde informale della Food and Drug Administration sul vaccino di Moderna e che conferma i dati diffusi dalla società su un'efficacia del 94,1%. In Italia intanto l'AIFA ha istituito il Comitato Scientifico per la sorveglianza dei vaccini Covid-19 che resterà in carica 2 anni. Garantirà una sorveglianza attiva, afferma il direttore generale dell'AIFA Nicola Magrini, sulla sicurezza di tutti i vaccini Covid-19 che arriveranno in Italia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rapporto Istat, non è ancora finito il 2020, ma una valutazione ragionevole fa pensare che quest'anno supereremo il confine dei 700.000 decessi. Una cosa del genere era successa solo nel 1944, ne parleremo proprio con il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, che sarà ospite tra poco qui a Effetto Notte. E dopo le frasi di ieri, quando il presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, ha detto che le persone sono un po' stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza, oggi sono arrivate le sue scuse. Ma intanto Confindustria ha fatto sapere che è stata aperta una procedura nei confronti di Guzzini presso il Consiglio di Indirizzo Etico e dei Valori Associativi, l'organo nazionale di Confindustria che presidia e implementa i principi etico-valoriali del sistema industriale. La procedura prelude a possibili sanzioni o a un passo indietro da parte dello stesso Guzzini. E ora il Covid in Europa. La situazione resta critica anche nei paesi europei, confermati lockdown, polemiche in Gran Bretagna per gli stop and go, linea dura della Germania, più morbida la Francia. L'emergenza pandemica mette a dura prova le politiche dei principali governi europei. Il caso più emblematico nelle ultime ore è stato la Gran Bretagna, dove il ministro Gove ha fissato una videoconferenza con le altre nazioni del Regno, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, per discutere l'opportunità di mantenere liberi tutti nei 5 giorni di Natale. Eventualità questa che nelle ore precedenti era finita sotto il fuoco di fila delle critiche incrociate di scienziati e opposizione laburista che chiedono di non allentare le restrizioni. Edimburgo pare orientato alla linea dura. In Germania, che si prepara al nuovo lungo lockdown e dove l'iniziativa di 3 mascherine gratuite FFP2 agli over 60 ha provocato l'assalto alle farmacie mentre scattava parallela la corsa a parrucchieri ed estetisti, la cancelliera Merkel si è detta preoccupata per le ultime evidenze del Robert Koch Institute, che parla di una situazione contagi grave come mai prima d'ora. A mezzanotte la Francia è uscita dal lockdown entrando in una fase di parziale riapertura che permette nuovamente gli spostamenti, ma prevede almeno fino al 20 gennaio gennaio, se non oltre, ristoranti, bar e luoghi di cultura chiusi. Il coprifuoco oltre Alpe scatta alle 20. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi una situazione particolare anche in Svezia, ondata di dimissioni di operatori sanitari a causa dello stress da Covid, una situazione che si aggiunge a una carenza precedente all'emergenza coronavirus. Le dichiarazioni di Sineva Ribeiro, presidente dell'Associazione Svedese dei Professionisti della Salute, che dice la situazione è terribile, l'ha detto in un'intervista telefonica, spiegando che anche prima della pandemia c'era una carenza di infermieri specializzati anche nelle unità di terapia intensiva. A Stoccolma questa settimana le terapie intensive erano occupate al 99%, un dato che ha mandato nel panico l'intera capitale svedese, che ha chiesto aiuti esterni. E siamo alla politica italiana, prosegue la verifica nella maggioranza nonostante le defezioni oggi di Italia Viva. Il governo rema in un'unica direzione per il rilancio economico del paese. Il premier Conte, in un videomessaggio alla cabina di regia per l'Italia internazionale, assicura sulla compattezza dell'esecutivo, mentre sul recovery plan, tema al centro del confronto e delle tensioni con Italia Viva, spiega che sarà un piano nazionale, nessuna concezione padronale. Non abbiamo assolutamente come governo una concezione padronale. Non è che perché ci siamo battuti in Europa per ottenere queste risorse riteniamo che siano nostre e debbano essere gestite con arbitrarietà da parte del governo o di qualche singolo ministro. Assolutamente no. Andiamo avanti se c'è coesione e unità, se c'è un'azione condivisa, dice ancora Conte, messaggio che lancia sempre al leader di Italia Viva, con il quale il confronto è slittato ai prossimi giorni ufficialmente per l'assenza del ministro Bellanova impegnata a Bruxelles. Ma intanto Renzi alza il tiro, minaccia che le sue ministre sono pronte a rimettere il mandato. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone, dice. Il governo deve fare un salto di qualità. Movimento 5 Stelle e PD ieri a Palazzo Chigi hanno invece ribadito nessun rimpasto all'orizzonte, ma solo la necessità di rilanciare la maggioranza sui temi economici. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ancora all'estero, India. I matrimoni infantili sono cresciuti in India a causa del Covid-19 e delle disastrose conseguenze che la pandemia e il lockdown hanno avuto sull'economia del paese. L'organizzazione non governativa Childline India Foundation, che è sostenuta da UNICEF, dal Ministero per le Donne e l'Infanzia nella lotta a questa piaga sociale, denuncia che in tutto il paese, nei 4 mesi di lockdown tra marzo e giugno, ci sono stati in India 5.214 matrimoni con ragazze, minori e bambine. Nel solo stato del Madhya Pradesh, da aprile a giugno di quest'anno, le nozze infantili sono state 117 a fronte delle 46 registrate tra novembre del 2019 e marzo del 2020. Una legge del 2006, Prohibition of Child Marriage Act, vieta le nozze sotto i 21 anni per i maschi, sotto i 18 per le femmine, ma il fenomeno resta tuttora molto presente negli stati più poveri e popolosi. Di nuovo in Italia, violenza sulle donne, ancora questo il tema. Condannato oggi in via definitiva a 15 anni l'ex fidanzato di Jessica Notaro, che le sfregiò il volto con l'acido, e ne parleremo nel corso di questa puntata con l'avvocato, lo stesso avvocato di Jessica. Passiamo alla musica, un cast allargato, misure di sicurezza in progress, la voglia di una manifestazione il più possibile vicina alla normalità. Parte con la finale di Sanremo Giovani, la corsa al Festival 2021. Questo 70 più 1, perché a me piace dire così, non è il 71esimo, ma il 70 più 1 vorrei che fosse un Sanremo della rinascita. È così che Amadeus inizia la corsa di avvicinamento a Sanremo 2021. Si parte con la serata finale di Sanremo Giovani, giovedì sera, che decreterà i 6 giovani che saliranno sul palco dell'Ariston tra le nuove proposte, insieme ai 2 in arrivo da Area Sanremo. E durante la serata Amadeus svelerà anche i nomi dei big in gara. Big che da 20 salgono a 26. Tanti giovani e 10 donne. Si tira dritto, insomma, confermate le date dal 2 al 6 marzo e confermata anche la sede dell'Ariston. La RAI sta studiando tutti i parametri di sicurezza, come la capienza massima del teatro o i tamponi al pubblico. Accanto ad Amadeus ci sarà di nuovo Fiorello? Fiore fa irruzione nella conferenza in streaming, solo per fare gli auguri di buone feste a tutti, dice, ma anche per prendere in giro il suo amico di sempre. Mi hai deluso, un po' di sessismo, un po' di omofobia, un po' di razzismo, un po' di negazionismo. Qualche cosa, lanciati, di come sei veramente, perché sennò poi che scrivono, niente, ma una polemica non l'hai fatta. Ti posso lasciare solo un momento, ragazzi, dai. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Speriamo che ci sia, almeno sarà appunto un segnale, che piaccia o non piaccia, un po' di ritorno alla normalità. Mentre torniamo sui campi con Dario Ricci per gli anticipi di Serie A maschile. Dario? Buonasera. Eccoci qua, sì, beh, pure questo è un piccolo segnale di normalità, anche se aspettiamo il pubblico, insomma, anche quello sarebbe il vero ritorno alla normalità. Certo. Intanto due le gare in programma oggi, si è chiuso sullo 0-0 alla Dacia Arena Udinese-Crotone, mentre a Benevento, siamo al 28esimo di gioco, Lazio in vantaggio per 1-0 sul Benevento, in questo che è un derby di famiglia per i fratelli Inzaghi, Simone allenatore della Lazio, Pippo allenatore del Benevento. Lazio in vantaggio grazie al gol al 25esimo del solito Ciro Immobile, un potente tiro sotto la traversa dopo un bell'assist di Sergej Milinkovic-Savic. Quindi 29esimo di gioco in questo istante, Benevento 0, Lazio 1. Grazie Dario Ricci, poi ci dirai come prosegue la partita. Intanto, prima di lasciarvi alla viabilità e cominciare ad approfondire alcuni argomenti in primo piano con gli ospiti, vi do un aggiornamento dagli Stati Uniti. Il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, che ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden, che è stata sancita definitivamente questa notte, ora italiana, avrebbe rivolto ai senatori del suo partito, quindi ai senatori repubblicani, un appello secondo quanto riporta il New York Times, e cioè porre fine agli sforzi di ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali non partecipando all'ultimo tentativo, quando il Congresso si riunirà per contare i voti del collegio elettorale il 6 gennaio. Insomma, diciamo che è una bella svolta che il leader dei senatori repubblicani, quindi il partito di Trump, dica ai suoi senatori basta continuare, insomma, a oltranza a cercare di ribaltare il risultato, che invece è quello che è appunto con la vittoria di Joe Biden. Ci sentiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie e sintesi della giornata che vi ho appena raccontato, gli aggiornamenti in diretta, vi dicevo appunto di questa notizia che arriva dagli Stati Uniti con il capo dei senatori repubblicani che dice basta continuare a voler ribaltare l'esito del voto, ha vinto Joe Biden e ha riconosciuto appunto la vittoria del neopresidente eletto. E poi naturalmente i vostri commenti se volete sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che è la pagina che è il numero per i vostri WhatsApp. Dice questo ascoltatore: gli italiani si stanno comportando in maniera eccellente e dice solo i politici che sono dei cialtroni, insomma, ognuno col proprio punto di vista, anche se naturalmente diciamo che gestire questo momento così complicato non è facile per nessuno, per il nostro governo, al di là di tutti gli errori, le mancanze, sicuramente anche i grossi errori. Vedete anche che cosa sta succedendo in Europa, ve l'ho raccontato nella prima parte. Bene, voglio partire, per quanto riguarda il primo tema di approfondimento questa sera, voglio partire da noi. Tutto ovviamente parla di noi, no? Tutte le cose che vi racconto e che approfondisco con gli ospiti ogni sera qui a Effetto Notte parlano di noi, ma c'è una cosa che rappresenta proprio, come possiamo dire, la nostra fotografia di noi italiane e italiani, ed è il rapporto Istat con i primi dati del censimento permanente della popolazione. In estrema sintesi, che cosa ci raccontano questi dati aggiornati? Che l'Italia è un paese sempre più anziano, in realtà questo lo sapevamo anche da dati più o meno recenti, e prosegue diciamo in questa direzione. Tutte le classi di età sotto i 44 anni vedono diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011, l'età media sta diventando quella dei 45 anni. Poi, per esempio, per quanto riguarda il livello di istruzione, il 50,1% degli italiani ha esclusivamente la licenza media, quindi la metà degli italiani, e i laureati sono il 13,9%. Poi diminuiscono i residenti, mentre aumentano i cittadini stranieri. Ma c'è un dato particolarmente sconcertante in questo rapporto dell'Istat pubblicato appunto oggi, e ne voglio parlare direttamente con il presidente dell'Istat, che è il professor Giancarlo Blangiardo, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buonasera professore. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Senta professore, allora quest'anno, che è il 2020, anno possiamo dire veramente infausto, non è ancora finito, però lei ha voluto sottolineare che quest'anno purtroppo nelle previsioni supereremo il confine dei 700.000 decessi, che sarebbe una quantità incredibile di vittime che si sono riscontrate l'ultima volta nel 1944, cioè in piena Seconda Guerra Mondiale. Un dato veramente terribile. Sì, purtroppo è così. Se siamo già arrivati ad un livello tale, no, i dati statistici che abbiamo a disposizione coprono i primi 10 mesi. però ci vuole poco a immaginare che novembre e dicembre aggiunti ai primi 10 mesi di cui abbiamo già determinato il numero totale porteranno ad un valore che sicuramente sarà superiore ai 700.000. E se andiamo a vedere nella storia, nelle statistiche di questo paese, scopriamo che 1944 tipo 726.000, qualcosa di simile, l'anno prima, 1943, ancora un pochino di più. Dopodiché basta, si ritorna sotto il livello del 700 per un po' di tempo, fino alla prima guerra mondiale, alla fine della prima guerra mondiale. Quindi di fatto abbiamo raggiunto un livello che ci riporta nel passato, peraltro con una popolazione che allora era un pochino più bassa, erano 45 milioni di abitanti, quindi insomma la differenza un po' c'è. Però insomma è evidente che questo è un segnale importante, un segnale che ci deve far riflettere. Quindi anche se vogliamo, se sono in grado di capirlo a questo punto, professor Blangiardo, uno schiaffo in faccia a quelli che continuano a negare, i negazionisti più assoluti o anche quelli che dicono vabbè ma insomma alla fine non ci sono tutti questi morti, non è vero che è così grave questa epidemia. No, beh, chiaramente è un dato oggettivo che insomma, di cui non si può non tenere conto. Cioè il Covid ha avuto il suo bel impatto, no, in questo momento? Impatto. Sicuramente l'ho avuto in maniera diretta, l'ho avuto in maniera indiretta, quindi che ci sia stato un forte incremento di mortalità per effetto di quel che sappiamo tutti è un dato inconfutabile. Se vuole, diciamo che c'è stato anche in passato picchi di mortalità in questo paese, però le condizioni erano diverse, cioè non c'era questo stato di incertezza che contraddistingue il nostro tempo, perché nel 2015, in cui nel corso dell'anno ci furono 50.000 morti in più rispetto all'anno precedente, beh sì, c'era stato un inverno con un'influenza particolarmente brutta, c'era stata la gente che non si era vaccinata, c'era stata un'estate calda, però insomma era un qualcosa in qualche modo circoscritto, nel senso che indubbiamente ha colpito i soggetti fragili, ma non era quella diffusa paura di un evento che non sai fino a quando durerà e con quali conseguenze finali. Ecco, questo secondo me è molto diverso rispetto alla stessa situazione che in qualche modo si poteva immaginare in periodi precedenti. Certo, invece per quanto riguarda gli altri dati in sintesi, che davo un'estrema sintesi prima, professor Blangiardo, continua un po' il trend, si direbbe la tendenza, no, dell'invecchiamento progressivo del paese, del calo demografico e del numero sempre minore di giovani e di bambini? Assolutamente, questo perché ci stiamo portando avanti, insomma sono 11 anni che la natalità in Italia diminuisce, ogni anno sempre meno. E sono 6 anni che abbiamo stabilito il record della più bassa natalità di sempre. Ogni anno miglioriamo al ribasso questo record. Faccio conto che nell'anno scorso, nel 2019, abbiamo avuto 420.000 nati. Naturalmente il valore così basso non c'era mai stato prima. E io credo, anzi, diciamo che ci scommetterei, anche se non mi piace come idea, però insomma, scommetto che anche nel 2020, quando faremo il bilancio finale, scenderemo addirittura, a mio parere, addirittura sotto il confine dei 400.000 nati. Quindi smentendo quello che qualcuno aveva previsto, dicendo ma col fatto che diciamo lockdown, York, tutti a casa, tutti si faranno New più figli. I bambini. No, sì. Il problema è questo, un conto è quando va via la luce e allora tu sai che prima o poi l'Enel o chi per esso te la rimette, quindi vabbè, fai altro. Un conto è quando sei lì e dici e adesso cosa succede? E adesso domani, dopodomani? L'incertezza del futuro. Cioè io ho fatto un esempio in qualche scritto in cui ci ricordavo la nube di Chernobyl. Bene, Chernobyl, maggio del 1986. Sì. Se andiamo 9 mesi dopo, febbraio dell'87, scopriamo che in Italia il numero dei nati è diminuito in maniera consistente. Questo perché? Perché quando in quel mese di maggio la gente si è spaventata, insomma in qualche modo qualcosa è rimasto. Poi lì è finita abbastanza in fretta, cioè in fondo la cosa è rientrata in tempi diciamo ragionevolmente brevi, per cui c'è stato il febbraio dell'87, il marzo, l'aprile, poi dopo le cose sono tornate in qualche modo addirittura recuperando. Ecco, qui io temo, adesso avremo a dicembre l'effetto di marzo, no? Perché è successo a marzo, quindi 9 mesi dopo siamo al mese di dicembre, e avremo i primi effetti, ma li avremo anche all'inizio del 2021. Professor Blangiardo, ma al di là appunto di questi periodi cupi di incertezza, appunto in cui non si vedono grandi prospettive, o almeno si è molto pessimisti e quindi si tende anche appunto a voler evitare di mettere al mondo altre persone, però invece in questa tendenza che lei appunto ricordava dura da un decennio, 11 anni, lei ci vede di più le diciamo difficoltà economiche dei più giovani, che quindi si arriva all'indipendenza economica, a poter avere una posizione solida un po' in tarda età poi per decidere di fare dei figli, oppure è anche una questione più culturale, insomma, visto che le donne soprattutto sono cambiate? Allora, secondo me è come sempre, insomma, non c'è mai un'unica spiegazione, è un insieme di fattori che interagiscono. Allora, certamente c'è l'aspetto economico, perché ovviamente i figli costano, c'è un aspetto di carattere organizzativo normativo legato al mercato del lavoro, quindi alla possibilità di conciliare, soprattutto per la donna, maternità e lavoro. C'è un atteggiamento anche di natura, se vogliamo, culturale, qualche volta meno propenso a buttarsi, al sacrificio, no? Oggi un giovane per sposarsi deve avere la casa di proprietà, una volta la prende in affitto, per fare un figlio a maggior ragione deve avere una serie di garanzie, di certezze, ci si studia di più, quindi la formazione, la chiusura nel tempo, ci si sposa più tardi. E poi naturalmente i tempi tecnici per fare i figli sono più ridotti, perché quando si incomincia a pensare di fare il primo figlio a 35, quasi 40 anni, è chiaro che poi se va bene ce ne sta un secondo e naturalmente non ci sta il terzo. Quindi una serie di elementi che si aggiungono, e rispetto ai quali anche il clima culturale generale, quindi l'idea del guardate che questi che si danno da fare fanno un figlio, lo fanno nell'interesse non solo loro ma anche della collettività. Ecco, questo messaggio, cioè questi ci pagheranno le pensioni, i figli degli altri pagheranno le pensioni a noi che ne abbiamo, bene, questo messaggio secondo me fatica a circolare, perché ognuno in qualche modo tende a pensare per sé. Professor Blangiardo, se lei dovesse, per chiudere, raccontare proprio in un'istantanea, no? Quindi in estrema sintesi, proprio una Polaroid, a una persona di un'altra nazione, che Italia è questa di questo momento? Quali elementi, con quali tratti la descriverebbe? Di questo momento particolare, con tutti, come dire, i problemi e i disagi che stiamo vivendo, è un'Italia, come dire, un po' contraddittoria, nel senso che è disposta ed è capace di fare i sacrifici e di dimostrare, come dire, di sapere attenersi alle regole, l'abbiamo visto, si lava le mani, fa quelle cose che nel primo lockdown abbiamo visto in maniera molto evidente, però è anche capace di perdere qualche volta la testa e quindi dimentica tutto quello che ha fatto e in pochi secondi in qualche modo rischia di compromettere i sacrifici che aveva fatto in precedenza. Quindi ahimè, e noi viviamo con questo spirito un po' di fantasia, no? L'italianità, come si diceva una volta, che ha i suoi vantaggi naturalmente, che poi siamo bravi, siamo capaci e se vogliamo sappiamo fare delle cose, però qualche volta, proprio perché siamo, come dire, non dico geniali, ma insomma fantasiosi, rischiamo poi di lasciarci prendere la mano e qualche volta magari possiamo procurare anche dei danni. E questi siamo noi, appunto, secondo il rapporto Istat e secondo il professor Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica. Grazie ancora, professor Blangiardo, e buona serata e buon lavoro. Buona serata. Grazie. Allora, qui ci fermiamo, come sempre, momentaneamente per una pausa di riflessione e di respiro. Vedo, appunto, ci sono varie vostre domande che riguardano invece proprio l'aspetto sanitario. Tra poco ci sarà il professor Rizzardini dell'ospedale Sacco di Milano, quindi per i vostri commenti vedo che si è ancora bloccato il WhatsApp, evidentemente arrivano, lo fate andare proprio in tilt, comunque il numero è lo stesso, 349-238-6666, poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, di ogni sera, composta e diretta da Roberta Giordano, con voi naturalmente e con, insieme agli ospiti, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Ogni tanto finalmente si riprende. Dice questo, vabbè, ci sono vari messaggi su diversi argomenti della giornata. Adesso però torneremo tra poco sulle questioni sanitarie, anche se mi ero persa un messaggio che stavo cercando di leggere, ma ogni tanto scompare il tutto. Carissima Roberta, puoi verificare con i tuoi esperti le dichiarazioni di questo ricercatore di Boston sul vaccino anti-Covid? Adesso poi mi prenderò il tempo per leggere, a volte fate delle domande veramente molto tecniche. Prima appunto abbiamo parlato un po' dell'Italia soprattutto in questo momento con il rapporto Istat e il presidente dell'Istat, che è il professor Blangiardo. Adesso occupiamoci più della situazione più prettamente sanitaria. Una situazione in cui è proprio chiaro, insomma, questo meccanismo che come noi allentiamo le misure i casi vanno su, come restringiamo riusciamo nel giro di qualche settimana ad ottenere dei risultati in termini di diminuzione dei positivi e in termini di diminuzione dei casi. Questo è uno dei passaggi della lunga conferenza stampa oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, che ha detto è palese che ogni volta che chiudiamo poi c'è un abbassamento del numero dei nuovi positivi e anche dei morti, anche se quello dei morti poi è un dato che si calcola, diciamo, sul medio-lungo periodo, perché magari una persona che si è ammalata gravemente un mese fa o due mesi fa può darsi che purtroppo poi muoia dopo due o tre mesi, e quindi, diciamo, a volte sono un po' distaccati il numero dei nuovi positivi e quello dei decessi, che però, lo avete sentito dall'inizio, sono ancora moltissimi, sono più di 800 anche oggi in una sola giornata. E Rezza, fra le varie cose che ha detto, ha anche ribadito che senza provvedimenti rischiamo questo temuto nuovo lockdown. Tante volte io purtroppo ricevo anche delle mail che sembrano quasi un po' minacciose, come se si rinfacci alla sanità pubblica di rallentare l'economia. L'economia non è rallentata dalle misure restrittive, è rallentata dalla circolazione del virus. Noi abbiamo visto che l'economia italiana è rifiorita nel momento in cui la circolazione del virus si è abbassata. Le misure parzialmente restrittive hanno in qualche modo tenuta più bassa la circolazione virale, hanno permesso anche di svolgere attività. È chiaro, se abbiamo 900 morti oggi quasi, non possiamo prendere a cuore leggero. Se ne avessimo 1500, perché magari non prendiamo alcun provvedimento, voi capite bene che alla fine saremo costretti a fare il lockdown, no? È quello che assolutamente si vuole invece evitare. È quello che assolutamente si vuole evitare, però oggi c'è stata questa riunione attesa, si parla di una riunione fiume del Comitato Tecnico Scientifico, che alla fine ha espresso le sue indicazioni, perché è l'organo di consulenza, diciamo, sanitario in questa emergenza coronavirus del governo, e quindi dà delle indicazioni a un certo punto il governo poi le deve tradurre in decisioni politiche. E le principali indicazioni che ha dato oggi il CTS sono inasprire le misure e aumentare i controlli, secondo le indicazioni già contenute nel DPCM del 3 dicembre, modulandole come si ritiene opportuno. Quindi il CTS ha messo nero su bianco al termine di questa riunione, ha sostanzialmente confermato la necessità di potenziare il dispositivo di controllo degli assembramenti nelle piazze, strade e vie dello shopping in questi giorni che precedono il Natale, anche se per il momento non ha parlato di chiusure. Ne voglio però io parlare con Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Buonasera Rizzardini. Sì, buonasera. Grazie di essere qui. Professor Rizzardini, ecco, rispetto a quindi quello che diceva Giovanni Rezza del Ministero della Salute, del direttore della prevenzione, il CTS, la situazione attuale in Italia, abbiamo detto che sono oltre 14.000 i nuovi casi positivi, oltre 800 i morti nelle ultime 24 ore. Insomma, e dicevamo anche in questi giorni del tira e molla che un pochino confonde, no? Prima le restrizioni del PCM del 3 dicembre, poi su pressione probabilmente delle opposizioni ma anche di parte degli esponenti della maggioranza, Conte forse voleva aprire a un ammorbidimento, insomma, delle restrizioni, delle regole della mobilità. Adesso di nuovo invece col CTS che dice no, qui bisogna di nuovo restringere. Lei che idea si è fatto, professor Rizzardini? Ma è un po' difficile orientarsi in questo zabuglio. È chiaro che il virus c'è ancora, quindi quello che diceva Gianni Ressa è vero, appena molliamo un pochino le restrizioni è più facile che si vedano gli assembramenti che si sono visti in questo weekend, e quindi gli assembramenti favoriscono la circolazione del virus. Appena appena aumenta questo indice di trasmissione ripartono i numeri. È chiaro che bisogna trovare una maniera di bilanciare l'esigenza di poter tornare a vivere normalmente e il fatto che appena ci si trova tutti assieme il virus riparta, perché di fatto non è mai andato via. Noi stiamo seguendo un pochino i numeri della Lombardia che sono favorevoli in questo momento qui, per cui i numeri dei pazienti ricoverati in ospedale via via diminuiscono, la pressione sui pronto soccorsi è nettamente ridotta, sono tutti i numeri di tamponi, la percentuale di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti è sotto il 10%, qualche giorno fa era sopra, abbondantemente sopra il 10%, quindi sono aspetti che sono stati favoriti dal fatto che non ci si trovava assieme, si mantenevano le distanze, si usava la mascherina. Quello che si è visto che direttamente nell'ultimo weekend rischia di far tornare indietro tutto, quindi è chiaro che soprattutto in vista delle feste in cui ci si trova più facilmente, ci si muove di più per acquistare regali e per andare fuori a mangiare, per trovarsi insieme, si rischia di tornare indietro. Questo chiaramente desta preoccupazione, che è quello che un po' diceva Gianni Renzo nel suo intervento. Sentiamo anche che cosa ha detto, fra le altre cose, oggi il Presidente del Consiglio Conte, a proposito appunto, un po' anticipando le chiamate ritocchini per evitare la terza ondata. Sentiamo. Abbiamo già predisposto, a dire il vero, come sapete, un piano di misure restrittive dedicate specificamente alle festività natalizie, però anche alla luce dei suggerimenti del CTS, del nostro comitato di esperti, forse qualche ritocchino, qualche ulteriore misura aggiuntiva la stiamo per introdurre. Adesso ci stiamo riflettendo in questi giorni. Dobbiamo scongiurare in ogni caso una terza ondata. Ecco, professor Rizzardini, comunque diciamo terza ondata nel senso una recrudescenza, però lei mi pare che spiegasse un po' all'inizio che alla fine non si tratta di ondate, il virus c'è sempre, circola e ogni tanto magari con le restrizioni ci sono meno contagi, meno morti, e poi ogni volta che un po' si allenta di nuovo comincia a galoppare, no? Sì, di fatto il virus non è mai andato via, dopo quella che noi definiamo una prima ondata il virus era presente, poi sono stati favoriti dalle norme che sono state prese, dal fatto che eravamo anche una stagione più favorevole, che era l'estate, si stava più fuori, normalmente tutte le infezioni virali respiratorie sono favorite dalla stagione invernale, dal fatto di stare in ambienti più chiusi, per cui abbiamo visto che c'è la diminuzione dei casi, ma il rumore di fondo, quindi il rumore della presenza del virus, c'è sempre stato. Nel momento in cui abbiamo riaperto le scuole, abbiamo mollato un po' tutte le restrizioni, il virus ha cominciato a trasmettersi tra uno e l'altro, quindi abbiamo visto quella che è la seconda, è stata che abbiamo definito la seconda ondata. In questo momento vediamo la curva in discesa ed è un buon dato, però il virus c'è, si trasmette e automaticamente abbiamo tutti imparato che bisogna l'R con 0, l'R con T, appena sale sopra 1. È facile che poi si replichi con una certa facilità e torniamo punto a capo, quindi la paura è quella di trovarsi nuovamente di fronte a una situazione in cui il sistema sanitario fa fatica a reggere, perché poi questo elastico fa far poi più fatica a tutti i sanitari, a tutto il sistema. È chiaro che si può mollare da quelle restrizioni da qualche punto di vista, però la gente poi forse non ha ancora capito che il virus c'è e che si diffonde, per cui appena ti dicono puoi fare qualcosa in più si riempiono le strade, ci sono assembramenti, insomma, l'abbiamo visto da tutte le parti nello scorso weekend. Tra l'altro, una cosa importante che ha detto Rezza oggi è anche che forse è presto per dire che si rientra davvero a scuola il 7 gennaio, anche perché bisogna vedere l'andamento del virus e anche se le cose che andavano corrette, come il trasporto pubblico locale, insomma, sarà fatto, si concretizzerà oppure no. Senta, siccome ci sono moltissime domande, ne faccio solo una, poi la lascio, professor Rizzardini. C'è questo ascoltatore che dice: carissima Roberta, puoi verificare il tuo esperto le dichiarazioni di questo ricercatore di Boston sul vaccino anti-Covid pubblicato da Affari Italiani? Purtroppo non ho letto, non so cosa dire. Parlerebbe di alterazioni epigenetiche e infertilità, addirittura. Questo... Mi sembra le solite esagerazioni. Non abbiamo, come forse sarete in qualche altra occasione, di questo virus, ancor meno dei vaccini che non abbiamo ancora cominciato a usare, non possiamo riempirci la bocca di notizie che la scienza, certo, non ha ancora comprovato. Questo è un vaccino che fortunatamente c'è in tempi brevi rispetto a quello che potevamo fare qualche anno fa. Una volta che abbiamo sviluppato un vaccino ci si impiegava 10-15 anni. Qui la tecnologia nuova, l'impegno di tutti ci ha permesso di avere dei vaccini nell'arco di un anno, e quindi questo è un aspetto positivo. Però è chiaro che, come tutti i farmaci, come tutti i vaccini, vanno verificati sul lungo termine. Quindi mi sembra che adesso ci sia un fracco di gente che non perde occasione di dire sciocchezze. Fare a meno di star zitto. Insomma, adesso poi magari c'è qualche base scientifica, ma mi sembra un po' difficile fare affermazioni di questo tipo. Ripeto, non le ho lette, però quando questo vaccino non ha ancora cominciato ad essere utilizzato. Bene, grazie professor Giuliano Rizzardini e buon lavoro allora. Buona serata. Grazie professore, buona serata. Invece adesso mi voglio occupare di una sentenza che almeno dal punto di vista giudiziario mette la parola fine a una storia terribile, è divenuta un caso particolarmente emblematico della violenza contro le donne, che è la storia di Jessica Notaro. Vi ricorderete tutti questa bellissima ragazza che fra le tante cose anche ex finalista di Miss Italia, che è stata sfregiata dal suo ex fidanzato. Oggi la Cassazione in via definitiva ha confermato la condanna appunto per Edson Tavares, il 32enne di origine capoverdiana, colpevole di averla prima perseguitata e poi sfregiata con l'acido. Quindi lo ha condannato definitivamente a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni. Ed è in collegamento l'avvocato di Jessica, che è l'avvocato Fiorenzo Alessi. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Buonasera a lei, signora. Avvocato, allora questa sentenza si può dire che è finalmente un altro passaggio per permettere a Jessica, pur tutta la sofferenza che ha vissuto finora, di fare un nuovo passo verso la sua nuova vita, no? Beh, direi di sì, sostanzialmente è anche questo un effetto di questa pronuncia della Corte di Cassazione. L'effetto principale e che finalmente si è messa la parola fine alle continue proclamazioni di estraneità al fatto da parte dell'imputato, si è definitivamente statuito che Tavares è non solo il persecutore di Jessica, ma è colui che l'ha sfregiata in volto e non è retorica quello che sto dicendo, anche nell'animo, perché queste sono vicende che si portano dentro fino alla fine dei propri giorni. Certo, avvocato. Fra l'altro ricordo che la procuratrice generale della Cassazione, Antonietta Picardi, che aveva chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso appunto della difesa di Tavares, con i giudici di secondo grado scrivono, hanno definito questa violenza con l'acido, insomma, come la plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima, privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola possedere egli stesso. Quindi effettivamente, no, questo è un altro reato terribile contro le donne, che significa proprio sfregiare il volto, cancellare l'identità, no, di quella donna. Dunque, le parole sono testuali. Lei ha citato un passaggio della sentenza di secondo grado in cui Devo riconoscerlo, non ero io il difensore impegnato proprio in Cassazione in quel giorno, ma era mio figlio Alberto. Noi abbiamo. Siete state tutte e due avvocate legali, coppia, sì. Sì, lavorate in coppia in maniera egregia. Sento di dirlo adesso che la sentenza è diventata definitiva, perché la soddisfazione professionale è di poter avere un esito favorevole e soprattutto che rispecchi il lavoro che è stato svolto. Questa è, credo, la soddisfazione particolare che questa pronuncia ci procura. Ma tornando alla sentenza d'appello, queste parole della Corte d'appello sono significative, sono emblematiche, ma soprattutto sono vere, perché se oggi quella sentenza diventata definitiva è una sentenza indiscutibile e quindi sono parole vere. Avvocato Alessi, fra l'altro la sentenza ha anche confermato l'espulsione dall'Italia di Tavares a certo, fine pena, no? Ha confermato integralmente la sentenza d'appello e le sentenze di primo grado, quindi ci sono a contarli, ad essere molto banali, 10 giudici che tra primo grado e oggi giudizio di legittimità hanno sempre costantemente riconosciuto e statuito che Tavares era il colpevole di tutti i reati che gli sono stati fin dall'inizio addebitati. Qui va reso anche merito a chi ha condotto fin dall'inizio le indagini, che è stato il pubblico ministero presso la procura di Rimini, dottor Marino Cerioni, e la polizia giudiziaria, che ovviamente è diretta dal pubblico ministero. Non sempre è agevole tutelare le persone offese nel nostro ordinamento processuale penalistico. Le persone offese sono difendibili con più difficoltà dell'imputato o indagato, che voglia dirsi. Questo lo dico per esperienza diretta. Purtroppo è così. Avvocato, per chiudere dico anche che Jessica è diventata uno dei simboli della lotta contro la violenza contro le donne, ma anche un riscatto, no, delle vittime, perché lei è poi diventata protagonista di alcuni programmi televisivi, ha inciso di recente anche un singolo, no, Gracias la vida. Insomma, diciamo che ha avuto tanta forza, tanto coraggio, sì, e tanta anche bene, positività. Tanta forza. È una ragazza forte, è una ragazza forte. È una brava ragazza, oggi l'ho definita, ci ha ringraziato con parole toccanti, devo essere sincero, potrebbe essere benissimo mia figlia per l'età che ha, e potrebbe essere benissimo la sorella di mio figlio avvocato Alberto. Tra l'altro, una curiosità, Jessica è nata nello stesso giorno in cui è nata mia figlia Eleonora, quindi il 27 di dicembre. Sono casi strano, che lasciano strano destino, infatti. Anche che colpiscono umanamente. Oggi le parole di Jessica sono state formidabili. Bene, grazie mille avvocato Alessi, grazie a lei, un abbraccio a Jessica allora. Grazie, buon lavoro. Grazie. Oh, invece il nostro Dario Ricci ci conferma, ci aggiorna anzi sulla partita ancora in corso di Champions, scusa, di Serie A, vedi, ho intanto visto i vari tornei, sì. Capisco, insomma, siamo da un argomento sicuramente emozionante. Ecco. Beh, non altrettanto, anche se è una buona partita, Benevento-Lazio, siamo all'inizio del secondo tempo, i primi 45 più recupero si sono chiusi sull'1-1, ci eravamo lasciati sul vantaggio bianco-celeste con la rete al 25esimo di Immobile su cross di Milinkovic e Savic. Nel finale del primo tempo è arrivato il pareggio del Benevento, che già in precedenza aveva avuto qualche buona occasione, un paio di buone occasioni con la Padula, e invece ci è voluto il tiro al volo di Schiattarella per siglare il momentaneo 1-1 quando siamo al 51esimo. Ricordo che nella gara delle 18:30 invece la Dacia Arena 0-0 tra Udinese e Crotone. Grazie caro Dario Ricci anche con questi aggiornamenti, e io poi torno brevemente, lo sapete, alle 22:00.